che cominciava quella storia? Com'è che non ricordo una parola? Eppure mi ricordo c'era un fuoco violento come un dardo mordente sul mio petto, come se son caduto dalle scale. Non ho nemmeno addosso una ferita, però se tocco dentro mi fa male. È fredda più del ghiaccio, più vera di uno specchio, ma oltre non riesco a guardare. Però mi ricorderei se fosse foglia, mi ricorderei se fosse aria, mi ricorderei se fosse fumo. E invece credi non lo so, ed io mi ricorderei se fosse schiuma, mi ricorderei se fosse acqua. E invece credi non lo so, se amore o amore no. Cos'è che cominciava con un fischio e poi finiva dentro ad una porta? La palla era dentro o era fuori? Se tutto era perduto, qualcuno l'avrà vinto. E per tornare indietro nella storia, infilo un dito nella mia memoria, ma in quel circuito devo stare attento. Commettere uno sbaglio, andare fino in fondo, che appena tocchi il filo si muore. Però mi ricorderei se fosse vino, mi ricorderei se fosse spuma, mi ricorderei se fosse cosa. Davvero credi non lo so, ed io mi ricorderei se fosse sera, mi ricorderei se fosse luna. E invece credi non lo so, se amore o amore no. Mi ricorderei se fosse cosa. Ed io mi ricorderei se fosse sera, mi ricorderei se fosse luna. E invece credi non lo so, se amore o amore no.